santa gloria umil ti stai, quell'onorata fronte lascia ch'io baci e che ti stringa il seno. Felice il re di Creta che un tal figlio sortì. Se avessi anch'io serbato il mio figlio, chissà, sarebbe tal. Rammenti al Candro con qual dolore te il consegnai, ma pure tempo non è di rammentar sventure. È ver, premio Aristea sarà del tuo valore, s'altro adonarti Clistene può, chiedilo pur, che mai quanto darti vorrei non chiederai. Taccio mia virtù, signor, son vero, e di tenero padre, ogni contento che con lui non divido è insipido per me. Dimmi eventuale, io d'ogni altro vorrei giungerli a portato, chiedere assenso per queste nozze, e lui presente in Creta legarmi ad Aristea. Giusta è la brava. Partirò se li concedi senza altro indugio, invece mia rimanda queste della mia sposa servo compagno e condottiere. Che volto è questo mai? Per rimirarlo il sangue mi si scuote in ogni vena. E questi chi è? Come s'appella? E ci sto a noi. Deriva ancora dalla stirpe regale, ma più che il sangue l'amicizia mi stringe, e son fra noi si concordi doveri comune il segno e l'allegrezza il duomo, che l'icita di Cristo è un nome solo, ingegnosa amicizia. Ebben, la cura di condurti la sposa Egisto avrà, ma Licida non debbe partir senza vederla. No, no, sarebbe pena maggiore. Mi sentirei morire l'atto di lasciarla. Ancora da luce, tanto pena io ne provo. Ecco che giunge. Oh,